approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Nel 1995 sono cadute le frontiere interne europee, sostituite da un'unica grande frontiera esterna. Il Trattato di Schengen ha sancito così l'apertura degli spazi comunitari e la libera circolazione delle persone e delle merci. In caso di grave minaccia per l'ordine pubblico e per la sicurezza interna, è previsto però che ogni singolo Stato firmatario possa ripristinare temporaneamente i controlli. Oggi, nel pieno dell'allarme terrorismo, si discute di nuovo della questione e dell'opportunità di attivare misure più restrittive anche sui cittadini europei, con possibili ripercussioni su chi, per lavoro, si trova ad attraversare regolarmente le frontiere, come gli autotrasportatori. Prima degli attentati di Parigi, la Francia aveva riattivato le procedure di verifica in vista del vertice sul clima. La Germania aveva fatto lo stesso lo scorso settembre, per rispondere temporaneamente alle problematiche legate ai flussi migratori. Il presidente di Conftrasporto, Paolo Ugge, ha scritto al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Del Rio, chiedendo di rafforzare i controlli nel settore dei trasporti e proponendo la sospensione temporanea dell'attività di cabotaggio per i trasportatori internazionali. Ma quali potrebbero essere le conseguenze di questa chiusura sulla movimentazione delle merci tra i paesi europei? Salve a tutti da Massimo De Donato e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Come avete ascoltato dalla nostra scheda iniziale, il tema oggi è sicuramente delicato. Parleremo di controlli, parleremo anche di sicurezza, ma non intesa nel senso di sicurezza stradale, ma di security, e cercheremo di capire meglio anche in compagnia dei nostri ospiti che cosa significa. Cominciamo raccontando due episodi di cronaca. Il primo successo lo scorso 26 novembre, cioè il sequestro al porto di Trieste di un carico di circa 800 fucili provenienti dalla Turchia e diretti in Germania, che erano trasportati ovviamente senza autorizzazione da un autoarticolato olandese condotto da un cittadino turco. E pochi giorni fa, il 28 novembre, invece, nel porto di Brindisi un altro episodio simile con un tir carico di 4 droni, un modello non offensivo ma comunque in uso alle forze aeree europee. Insomma, episodi che fanno sicuramente riflettere, e arriva anche un grido d'allarme da parte delle associazioni di categoria dell'autotrasporto che chiedono maggiori controlli alle frontiere per frenare possibili episodi di questo tipo. Ne parliamo in compagnia dei nostri ospiti. Vi presento il primo, che è Paolo Ugge, presidente di Conftrasporto. Grazie per essere con noi e buon pomeriggio. Grazie a voi e buon pomeriggio a tutti. Le proposte che avevamo avanzato era chiedere a livello comunitario, in questa fase molto molto molto grave, di impedire il trasporto di cabotaggio nei vari stati europei, ma rendendomi conto che questa è una richiesta abbastanza forte e forse non accettabile, ho chiesto che immediatamente si attuasse per i trasporti che provengono da paesi extra Unione Europea la stessa norma che è stata adottata in 7 giorni dal governo austriaco, e cioè tu devi venire in un paese dell'Unione Europea e devi fare la domanda 7 giorni prima, scaricarti il modulo, dire chi sei, qual è l'azienda, da dove vieni, chi è il dipendente, come lo paghi, in modo tale da avere degli strumenti ulteriori di efficace controllo. Ovviamente il potenziamento dei controlli poi lungo le strade è la richiesta fondamentale che l'autotrasporto tutto, certo, avanza da tempo, e qui bisogna però passare dalle parole, dalle promesse, dagli impegni ai fatti concreti. Ecco, a proposito di controlli, sempre qualche giorno fa si è riunito il Comitato Interministeriale per la Sicurezza dei Trasporti Terrestri, e noi ne parliamo in compagnia del direttore per i trasporti stradali e l'intermodalità del Ministero, Enrico Finocchi. Che cosa si è deciso nel corso di questo incontro? Si è riunito il Comitato e si riunirà nuovamente nei prossimi giorni proprio per affrontare l'emergenza security e sicurezza sulle nostre strade. E ovviamente si va verso un rafforzamento dei controlli su strada con la polizia stradale, con le pattuglie miste, con i funzionari della motorizzazione civile, con i nostri centri mobili di revisione. Oggi già si fanno moltissimi controlli, si vogliono implementare anche per i veicoli cosiddetti leggeri, quindi pesanti, commerciali, ma non di 3,5 tonnellate, diciamo che sono moltissimi, e si vuole definire, individuare specifiche liste di controllo finalizzate proprio alla security e attivare anche progetti di formazione del personale. Quindi stiamo coinvolgendo gli altri ministeri interessati, ovviamente. E rispondendo a Paolo Ugges, se posso, volevo dire questo: sulla legge stabilità probabilmente sarà inserita proprio una norma per consentire migliori controlli su strada proprio in occasione del trasporto internazionale, per avere la prova di che trasporto si tratta e così via. Non arriviamo in tempi brevissimi alla registrazione come ha fatto l'Austria, perché comporta l'implementazione di sistemi informativi e di procedure anche con dei costi e dei tempi di realizzazione. Ecco, a proposito di sistemi informativi e di procedure, la piattaforma nazionale telematica, che tra l'altro si era già candidata per voce del suo presidente qualche tempo fa a supportare questo tipo di attività, potrebbe essere utile in questo campo? Sì, sicuramente la piattaforma logistica nazionale che consente la tracciabilità già oggi dei veicoli pesanti e quindi un controllo del veicolo, del movimento del veicolo in Italia, può essere utilizzata anche per monitorare i carichi. Lo stiamo facendo per esempio con l'agenzia delle dogane. Abbiamo creato dei corridoi doganali controllati, per cui sappiamo perfettamente la merce che è arrivata, che cos'è e dove arriva. Quindi utilizzando in maniera più massiccia una piattaforma nazionale che già esiste ed è in funzione, si potrà ottenere una maggiore sicurezza sicuramente. Ugge, sul fronte dei controlli, oltre ad un aumento quantitativo, che tipo di miglioramento qualitativo chiedono le associazioni di categoria? Innanzitutto dei controlli mirati. Voglio dire, oggi abbiamo una situazione nella quale è evidente che da alcuni paesi provengono forme di trasporto abusivo e quindi mirare e fare un programma nel quale gli autotrasportatori che provengono da questi paesi siano un po' più attenzionati. Cioè, siamo in una situazione di emergenza. Io veramente comprendo e so benissimo lo sforzo e l'impegno che a livello dei funzionari del Ministero, sia delle infrastrutture e trasporti che Ministero dell'Interno, si compie per assicurare la possibilità del controllo, ma qui siamo in una fase, non dico di bellica, ma siamo veramente in una situazione veramente, veramente pesante. E allora la questione è politica, il governo deve prendere una decisione, lo faccia immediatamente, non stia lì a perdere del tempo. Ecco, allora io chiedo che da parte della classe politica si prenda veramente coscienza di questo rischio a cui vengono sottoposti i cittadini italiani e gli operatori del trasporto, e si introducano, fregandosene, uso questa espressione forte, dell'Unione Europea, come fanno gli altri paesi, adottiamo il sistema, dopodiché se faranno i ricorsi ne parleremo fra 7-8 mesi, ma intanto abbiamo la necessità di intervenire da subito. Dottor Finocchi, un allarme forte sicuramente, un problema credo politicamente ormai riconosciuto a livello mondiale, perché il fatto che siamo in guerra ormai lo stanno ripetendo in molti. Come è possibile evitare episodi come quello che abbiamo citato, come quelli che abbiamo citato del porto di Trieste, del porto di Brindisi, utilizzando appunto gli uomini e le tecnologie esistenti? Ma già nel Comitato Interministeriale di Sicurezza e Trasporti Terrestri si è affrontato questo problema, e l'idea è proprio rivitalizzare controlli mirati per i veicoli pesanti provenienti da taluni stati, diciamo, a rischio. Già esistono queste modalità, anche non informatiche: va registrato il viaggio presso l'ambasciata locale, detto dove si va, registrato il percorso in entrata, lo scarico in uscita presso gli uffici doganali. Va rivitalizzata questa cosa, penso si possa fare in breve tempo. Bene, termina qui anche questa puntata di Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Prima di lasciarci vi ricordo che questa è una produzione realizzata in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori. Vi ricordo anche il nostro indirizzo email container@radio24.it. Il nostro appuntamento ritorna come al solito sabato alle 13:15 circa. Un saluto a tutti da Massimo De Donato.